Sì, rappresentanze, io spero che mi permetterete in questi giorni di esultanza referendaria di spendere ancora qualche parola per giustificare il mio attaccamento al caro vecchio sistema proporzionale, sapete? Quello in cui le varie forze politiche chiedevano ciascuna il voto per sé in base ai propri programmi e alle proprie identità, se ne avevano, e i seggi disponibili erano assegnati in proporzione appunto ai voti raccolti. Lo faccio con una certa titubanza perché oggi il proporzionale non è esattamente alla pace, è una cosa arretrata, fuori moda, un'anticaglia da prima repubblica, una piaga solennemente rimossa dal corpo istituzionale dal pronunciamento plebiscitario del 18 aprile 93, sopravvissuta solo sotto forma di quella modesta sia pur molesta quota di cui il referendum prossimo 21 ci libererà una volta per tutte. Ma ve ne chiedo comunque il permesso, perché io ho la logica trionfante del maggioritario, quella per cui chi vince sia pure di un fiat, si becca tutto e gli altri si grattano, che volete, non riesco a rassegnarmi. Vedete, una quantità di persone ragionevoli mi ha assicurato che il problema non è quello di quale dei due sistemi sia più giusto, che è questione astratta, praticamente impossibile da dirimere e via dicendo, ma quello assai più concreto della loro funzionalità. Il nostro sistema parlamentare soffre di forme gravi di instabilità da frammentazione, troppe forze politiche, troppi partitini, troppi galli nel pollaio. Il maggioritario per sua natura determina quella rude semplificazione su cui si fonde ogni governabilità. Onde ben venga il referendum, che sia pur vagamente truffaldino nell'impostazione, come abbiamo già detto le volte scorse, permetterà comunque ai cittadini di compiere un passo avanti in quella auspicata direzione. So. Ma a prescindere dal fatto che quando un certo svolgimento è così largamente auspicato, io, come voi suppongo, tendo a diffidarne, io dal sospetto che questo modo di stabilire rapporti sia, per così dire, un po' meccanico, non riesco a liberarmi. Il maggioritario, lo so, funziona benissimo in Francia, in un'altra variante in Gran Bretagna, un po' meno negli Stati Uniti, ma altrove, non so, in America Latina, finora non è servito assolutamente a niente. E d'altronde al proporzionale si affidano senza problemi la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, compresa la Germania. I 40 partiti e passa che ci affliggono sono sicuramente troppi, ma la maggior parte di loro è stata inventata dopo la fine del proporzionale. Se i partiti proliferano l'uno sull'altro come cellule impazzite, vorrà dire che la loro identità è debole e che i loro rapporti con gli elettori non sono univoci, il che è una tipica manifestazione di frattura tra ceto politico e società civile, con il sistema elettorale che vige c'entra solo fino a un certo punto, non c'entra per niente, anzi. Nel complesso, nella logica di chi attribuisce alla quota proporzionale la responsabilità di tutte le nostre traversie, non è troppo diversa da quella di chi, soffrendo di febbre, ne dia la colpa al termometro. E ora, pur dando per scontato che tutti i sistemi elettorali hanno i loro pregi e i loro difetti, figuriamoci, ci consentirete di restare affezionati a quello che, assicurando a chi vota la massima possibilità di scelta, garantisce che gli eletti rappresentino gli elettori con, almeno con quanta più approssimazione possibile, e di guardare con una certa ansietà a un referendum, il prossimo, che dovrebbe determinare una legge in base alla quale 155 deputati su 630, mica pochi, non saranno eletti né con il metodo proporzionale, che viene abolito, né con quello maggioritario, ma soltanto in quanto migliori secondi arrivati, migliori sconfitti nei rispettivi collegi maggioritari, con il risultato di ribaltare automaticamente qualsiasi possibile risultato, garantendo che la maggioranza parlamentare non corrisponda a quella degli elettori. Perché capite che se un deputato su quattro va a infoltire le schiere del partito sconfitto, alla fine succede che gli sconfitti sono più numerosi dei vincitori. Con tanti cari saluti a quel principio di rappresentanza in nome del quale sono state inventate le democrazie moderne. D'altronde, questa è la cosa più interessante, a me sembra che su questa linea i nostri politici siano avviati da tempo, sulla linea del disinteresse, se non il disprezzo per il principio di rappresentanza. Pensate se avete avuto cuore di sorbirvele alle polemiche di questi giorni, quelle sull'Ulivo, su Cossiga, sono una menata pazzesca, ma stringi stringi si riducono a un'interessante controversia tra il buon Prodi, che è stato eletto senza avere un partito alle spalle grazie a voti graziosamente forniti da altri, e che un partito pensa di costituirselo adesso ex post, cioè prima si elegge, prima si fa eleggere e poi decide in per che cosa, e il bizzarro Cossiga, che è senatore a vita e che non è stato eletto proprio da nessuno e i cui seguaci sono stati mandati in Parlamento che con tutt'altro scopo che quello di essere seguaci di lui. Entrambi, se vigesse un corretto sistema proporzionale, non rappresenterebbero altro che se stessi e sarebbe un enorme vantaggio per tutti. Ma che volete? Entrambi sono politici navigati, di quelli che sanno che di fronte alle superiori esigenze della governabilità gli elettori con le loro fisime non possono che creare inutili complicazioni. Ancora un paio di referendum vedrete, e di queste complicazioni la politica italiana potrà fare a meno una volta per tutte.